per te stasera dal Brasile una bossa nova. Per te stasera sta nascendo una nuova storia. Per te stasera sta morendo il sole e la luna. Si è vestita da primavera con i tacchi a spillo bambina. Per te stasera tutto il mondo suona, suona. Nell'anticamera del sogno, stella divina. Una canzone appesa al cuore che ti ricorda il grande amore. Una canzone che ricorda la sua parte migliore. Ti rivedi al suo fianco a ballare l'immenso, nelle sconfinate luci, nel vento, quando grazie al cielo sfioravi il pavimento e volavi oltre ogni ovunque, oltre il tempo, il sogno fatto carne, squillano le trombe e tu ridi e speri che un giorno torni quel tempo. Non si può vivere una vita solo di ricordi. Non si possono lasciare al freddo tutti i nostri sguardi. Abbiamo tutti prima o poi i nostri affanni, ma ciò non toglie che abbiamo tutti un cuore pieno di sogni. Per te stasera dal Brasile una bossa nova. Per te stasera sta nascendo una nuova storia. Per te stasera sta morendo il sole e la luna. Si è vestita da primavera con i tacchi a spillo bambina. Ti rivedi al suo fianco a ballare l'immenso, nelle sconfinate luci, nel vento, quando grazie al cielo sfioravi il pavimento e volavi oltre ogni ovunque, oltre il tempo, il sogno fatto carne, squillano le trombe e tu ridi e speri che un giorno torni quel tempo. Ti rivedi al suo fianco a ballare l'immenso, nelle sconfinate luci, nel vento, quando grazie al cielo sfioravi il pavimento e volavi oltre ogni ovunque, oltre il tempo, il sogno fatto carne, squillano le trombe e tu ridi e speri che un giorno torni quel tempo.